Pubblicato sulla rivista Contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Giambonino, una nuova poesia del poeta Lorenzo Stocchi. Nel cielo veleggiano nuvole scure. Nel cielo veleggiano nuvole scure, forse pioverà. Mi sento addosso una tremenda inquietudine, la voglia irrefrenabile di prendere il mondo tra le dita, sbucciarlo come un'arancia e divorarlo a spicchi. Ma le bucce le lascerei vagare nell'infinito, come asteroidi vagabondi, inseguendoli con il pensiero. Però che fregatura non avere mai quello che si desidera. Dove sono le cose chiamate e non venute? Chi mi saprebbe mai rispondere? Intanto la luna lassù, in un mare denso di nubi, sembra una nave corsara, gonfia e lucente come le sue sinuosità. E potrebbe anche tornarmi in mente la tua pura essenza e dirti come stai, mi manchi. Ma capiresti subito che sarebbe uno scherzo di pessimo gusto.